Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Longest, best gymnast that I've ever seen. Beautiful rhythm, right to a handstand. Oh, look at that amplitude. Ooh. It wasn't just the crowd that loved it. And it is. A perfect dance. Abbiamo appena ascoltato l'haka, danza tipica del popolo Maori, resa celebre nello stile della kamate dagli All Blacks, la nazionale di rugby neozelandese. E subito dopo esclamare Perfect Ten dalla commentatrice della televisione americana alle Olimpiadi di Montreal del 1976, riferendosi al voto finale per il perfetto esercizio di Nadia Comaneci alle parallele asimmetriche. Già perché oggi parliamo del rugby e della ginnastica artistica. Due sport che apparentemente hanno ben poco in comune. Eppure, tra le due discipline, esistono punti di contatto impensabili a occhi distratti o incompetenti. E alcune delle loro straordinarie storie sono spesso più simili di quanto si creda. Quella che vi raccontiamo oggi è la dimostrazione di quanto sia vero e di come la vita dei nostri protagonisti si è potuta incrociare partendo da queste due apparentemente inconciliabili specialità. Prima di conoscerli, scopriamo qualcosa di più di questi due mondi. In spogliatoio, prima della partita. I piloni, i ciccioni, nudi, si mette la sircamina uno con l'altro sulla schiena, mentre le ali mette la stessa roba sotto il piede, sul polpaccio, perché spesso muore congelà in campo senza neanche toccare un ballon. Tutti gli altri il polpaccio, dentro, fuori, e poi no! La coscia, ma no far pipì, che la sircamina brusa, la salsegno indelebile. Lavarsi le mani. L'ultimo momento, il pacchetto di mischia completo, tuffa la faccia nella vaselina, orecchie e capelli compresi, per via del sfregamento contro pacchetto di mischia avversario. Con la vaselina si sente meno e non si arriccia al bordo dell'orecchia, che non è un bel vedere. Nelle parole di Marco Paolini, attore teatrale nato in Veneto, regione da sempre punto di riferimento del rugby italiano, c'è molto dell'atmosfera che chiunque abbia avuto a che fare con la palla ovale può facilmente riconoscere e ricordare. Una partita a scacchi giocata in velocità, si dice del rugby, che nasce più di un secolo fa in Inghilterra grazie all'estemporanea follia di William Webb Ellis, studente al college della cittadina di Rugby, che durante una partita di calcio prende la palla in mano, corre come un ossesso per arrivare dall'altra parte del campo, la posa a terra e di fatto inventa il rugby. Forza fisica, coraggio, velocità e perizia tecnica. Un condensato di qualità che si sposa perfettamente con uno sport che all'apparenza pare diametralmente opposto, la ginnastica artistica. Quando sei una giovane ginnasta, le parallele sono sempre molto alte. Nadia fu la prima che fece vedere al mondo un 10 perfetto. Non una volta sola, ma 7. Lei mi ha fatto capire che se io lavoro duro, potrò arrivare, anche solo per un momento, a raggiungere l'impossibile. Ancora più profonde del rugby sono le origini della ginnastica, praticata pressoché ovunque nel mondo antico, diventa artistica grazie all'evoluzione nel tempo dei gesti ginnici, uniformati in modo da essere messi a confronto e consentire la competizione. Che è sempre dura, spietata, condizionata com'è dal giudizio altrui e dalla progressiva eliminazione dalla gara dei concorrenti. In Italia la ginnastica moderna è introdotta a metà dell'Ottocento da Girolamo Bagatta nel suo istituto a Desenzano e dall'elvetico Obermann, il quale insegna alla Regia Accademia Militare di Torino. Le prime società sportive si formano a quei tempi e nel 1887 nasce la prima Federazione Ginnastica Italia, oggi Federginnastica, la più antica delle federazioni sportive italiane. Oggi si incrociano le vite di due sportivi che del rugby e della ginnastica, sport di disciplina e coraggio, hanno fatto una ragione di vita e un trampolino per il successo. Il primo è riuscito nel corso della sua vita a fonderne le caratteristiche principali, passando dall'uno all'altro con l'apparente disinvoltura di un volteggio alle parallele, ma con la determinazione di un uomo temprato da mischie furiose. Il suo nome è Enrico Casella. Enrico Casella. Ma io ho cominciato a giocare a rugby per caso, ero al liceo, un mio compagno di classe mi disse dai vieni a provare, sono andato al campo, ho trovato uno spogliatoio pieno di ragazzi come me, mi hanno detto ma tu mettiti all'ala, non mi hanno neanche spiegato le regole, tant'è vero che uno dei primi falli che ho fatto è placare uno che mi aveva fatto un calcetto a seguire, non mi avevano detto che non potevo placarlo senza palla, io l'ho placato, però vabbè insomma queste sono delle cose abbastanza normali. Enrico Casella nasce nel 1957 a Brescia, città permeata di cultura d'impresa ed etica del lavoro. Qualità che saranno presto le caratteristiche complementari del suo carattere, deciso e determinato. Un placcatore dei campi da rugby, ma anche delle scelte di vita. Non ancora 20 anni, quando per la prima volta si allontana da casa, come racconta lui stesso. Dopo un anno o due è arrivato Roger Beard, che era un pilone del Cardiff e col quale ha avuto un rapporto bellissimo. Tra l'altro, proprio nel passaggio dal settore giovanile al settore, diciamo, prima squadra, abbiamo fatto una trasferta, io e altri tre miei compagni di giovanile, abbiamo fatto una trasferta in Galles, siamo andati a trovarlo a Pontypridd e lui ci ha fatto fare un'esperienza incredibile perché ogni giorno lui ci portava in un club. Siamo andati a Cardiff, a Pontypool, a Pontypridd, a Llanelli, a Newport e andavamo il pomeriggio a fare allenamento con loro, la sera ovviamente al pub con i giocatori e poi arrivavamo a casa ovviamente da questo terzo tempo abbastanza sfatti, la mattina dopo ci veniva a prendere perché ci aveva piazzato in una roulotte di un suo amico in un parcheggio di una discoteca, quindi eravamo però felicissimi e quindi ogni giorno facevamo questa esperienza sportiva, ma anche un'esperienza di vita, perché quattro ragazzotti italiani in Galles che si allenavano tutti i giorni, è stata veramente una cosa fantastica. Enrico Casella è ancora oggi un uomo possente, dai muscoli guizzanti, nonostante le 54 primavere. A chiunque lo guardi ritorna la sensazione di un guerriero tornato da epiche battaglie medioevali in punta di spadone. La voce è tonante, la risata forte, il franco sorriso incorniciato da baffi sale e pepe. Ma a quei tempi di campi da gioco e pub d'oltremanica, il rugby e le sue durezze, la sua disciplina, non sono l'unica aspirazione del giovane rugbista. Lo studio di una materia altrettanto dura e che richiede grande applicazione è un obiettivo parallelo allo sport, la sua nuova sfida a chiunque creda al luogo comune che muscoli e cervello siano inconciliabili. Mai banale nelle sue scelte, Enrico sceglie di iscriversi a ingegneria nucleare a Milano. Allora, a 18 anni poi, come tutti i ragazzi di 18 anni, le idee sono un po' confuse, quindi io non so bene cosa fare. Prima voglio fare fisioterapista, ma non va, perché non c'è il corso adatto. Poi provo a iscrivermi all'ISEF, ma la raccomandazione del rugby Brescia, allora c'era Invernici a Brescia, arriva in ritardo e quindi io e il mio amico mentore Galloni, che faceva il centro con me nel Brescia, siamo i raccomandati in ritardo, quindi siamo il primo e il secondo degli esclusi alla Cattolica, quindi niente. E allora decido di iscrivermi a ingegneria, perché era a Brescia, io potevo così restare a Brescia a giocare, continuare a stare anche vicino alla ginnastica, dalla quale non mi ero mai allontanato. A quel punto, dopo i primi 2 anni a Brescia, che all'epoca c'era solo ingegneria meccanica, però ingegneria meccanica non mi piace, con un mio compagno vediamo così, c'era l'energia nucleare in quegli anni che sembrava dovesse trasformare il mondo, e allora ci buttiamo all'ingegneria nucleare, quindi trasferimento a Milano, il primo anno prendiamo un appartamento a Milano, io mi alleno col CUS Milano, poi vengo su a Brescia a fare degli allenamenti, insomma abbastanza difficile, dopo ho fatto un anno solo così, poi dopo sono tornato a fare il pendolare, andavo avanti e indietro, così ho potuto continuare a seguire rugby e ginnastica, andando tutte le mattine all'università, prendendo il treno e tornando nel pomeriggio. Ho fatto 2 anni da pendolare così, da quel giorno cerco di non prendere più treni e sono riuscito sono riuscito in 5 anni a fare il militare, laurearmi in ingegneria nucleare, continuare a giocare a rugby e mantenere anche la passione della ginnastica, quindi è stato un periodo abbastanza intenso della mia vita. Con il CUS Milano, Enrico vince 2 titoli universitari tra un esame e l'altro. Frequenta amici di entrambi i mondi, con i quali dividere le fatiche, ma anche le feste, spesso fino a notte fonda. In Casella, da sempre, alberga anche un altro spirito, un altro uomo, capace di vedere oltre. Lui è dotato di una sensibilità che gli permette di rivolgere lo sguardo altrove e mettersi al servizio di cause diverse. Si laurea e rientra a Brescia, dove continua a giocare nella squadra cittadina. Ma a un certo punto della sua carriera, i rapporti con la dirigenza del club si guastano senza possibilità di riparazione. Enrico è deluso da un mondo cui ha dato molto e decide così di volgere definitivamente il suo sguardo altrove, puntando tutto sulla sua vecchia passione per la ginnastica. Prima ha fatto l'atleta a scarsissimo livello, ovviamente, visto il mio fisico, però avevo cominciato subito a fare l'aiuto allenatore. E mi ero occupato da prima sempre del settore femminile, perché mi interessavano anche le ragazze, io ero giovane, quindi giustamente, e però poi pian piano sta come un virus, no? E sempre di più, e quindi il rugby, che insomma mi aveva un pochettino deluso, mi sono allontanato, e avevo bisogno di mantenermi in un ambito sportivo, e ho preso sempre più di petto questa ginnastica artistica, finché mi sono ammalato del virus e non ho più potuto smettere di fare l'allenatore. E quindi ho cominciato, poi io quando comincio a fare una cosa poi mi ci incaponisco, e quindi pian piano sempre di più le ore sono aumentate, i desideri, le ambizioni, cercare di migliorarsi, e quindi pian piano è diventata una delle componenti più importanti della mia vita. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Lasciato il mondo del rugby, Casella si dedica così anima e corpo alla nuova sfida e in pochi mesi diventa uno dei tecnici della Forza e Costanza, storica e rinomata società bresciana fondata nel 1886 e capace di scrivere pagine indimenticabili nel grande libro dello sport bresciano, italiano e mondiale. È qui che Enrico apprende i fondamentali del training acrobatico e artistico, portando fin da allora il suo contributo di esperienza di atleta formatosi sui campi da rugby e una mente razionale e speculativa da ingegnere. Ma l'indole intraprendente e indipendente lo porta presto a nuove incomprensioni, complice un carattere non sempre accomodante. Nel 1984 ecco allora un'altra svolta della sua vita. Enrico decide di lasciare la Forza e Costanza per fondare una sua società di ginnastica, nella quale riversare la sua passione per lo sport e le sue idee sulle metodologie di allenamento e di organizzazione. Nasce così la Brixia. E quindi niente, capisco che lì non è l'ambiente che fa per me, e quindi insieme a mia moglie fondiamo la Brixia nel 1984, in un'estate, con i genitori che... Noi veniamo allontanati, insomma, in buona sostanza, dalla Forza e Costanza, allora decidiamo di fare questa nuova società, dove il nostro spirito è quello di cercare di tirare fuori il massimo dalle ragazze che vogliono intraprendere questa disciplina e la vogliono fare sul serio. E allora cominciamo un percorso che veramente, se poi uno va a guardarsi indietro... Brixia, nome latino della Brescia romanica, città fondata nell'89 a.C. dai Romani su un antico centro di Galli Cenomani, è il nome che Enrico Casella decide di dare alla società di ginnastica che fonda nell'estate del 1984 insieme alle socie Daniela Leporati e Paola Rietti. I primi anni sono di duro lavoro e selezione, ma i risultati non immediati. La volontà di Enrico è come sempre incrollabile, come la sua fiducia nel metodo di lavoro, ma i soldi sono pochi. Il momento è difficile e lui si deve trasformare anche in procacciatore di sponsor, curare la parte amministrativa mettendo a frutto la sua preparazione universitaria. Sul finire di quei pionieristici anni Ottanta, l'atleta che un giorno incrocerà il destino di Casella e della Brixia sulla strada dei massimi risultati non è però ancora venuta al mondo. Si deve attendere il 10 novembre 1990, quando a Orzi Nuovi, paese agricolo della pianura bresciana, presso le sponde del fiume Oglio, nasce la futura stella della ginnastica italiana e mondiale. E la nostra seconda protagonista, il suo nome, è Vanessa Ferrari. Vanessa Ferrari. Yuri, dici che questo esercizio vale più di 15.225 e soprattutto che davvero la medaglia d'oro è italiana. Vanessa Ferrari non ha sbagliato nulla. Questa è la nuova campionessa del mondo. Non è signore e signori, questa è la nuova campionessa del mondo. Non è ancora uscito il punteggio, non sappiamo ancora nulla. Ferrari, terzo cognome più diffuso in Italia, primo nella provincia di Brescia. L'etimologia richiama il mestiere del fabbro, cioè di colui che lavora il ferro, del cui impiego industriale la Valtrompia, una delle tre principali valli bresciane, è stata per secoli indiscussa protagonista. E per quanto comune, il cognome Ferrari è peculiarmente noto in ogni angolo del mondo grazie alla casa automobilistica di Maranello, e la Ferrari è marchio che rimanda a leggendarie glorie sportive. Ma Ferrari, nella storia di oggi e nella storia dello sport italiano, è anche il cognome di una piccola grande atleta che sul finire degli anni 90 sta per incrociare la strada dell'uomo che la aiuterà a farla conoscere a sua volta a livello mondiale. L'allenatore e patron della ginnastica Brixia, Enrico Casella. La prima volta che incontro Vanessa, Vanessa è piccolissima, quasi 7 anni, me la porta sua mamma, ci porta questa bambina che ha provato a fare ginnastica, la mamma è bulgara, e ha visto però a Castelleone, in provincia di Cremona, dove è andata, che si faceva ginnastica, ma non come lei sapeva che si faceva ginnastica in Bulgaria. E allora gli allenatori del posto hanno detto: guardi, qui facciamo così, però se vuol portare in un posto dove fanno ginnastica sul serio deve andare a Brescia, il posto più vicino a Brescia, alla Brixia, c'è questo allenatore. Dimenticare. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Brescia, alla fine degli anni 90, dove Vanessa Ferrari, minuta bambina innamorata della ginnastica artistica, sta muovendo i primi passi alla Brixia Gym, sotto gli occhi attenti e severi di Enrico Casella, ex rugbista di Serie A e ingegnere nucleare, fondatore e principale tecnico della società sportiva cittadina. Il gigante del rugby e la futura farfalla iridata della ginnastica italiana e mondiale stanno per incrociare le loro strade. Vanessa racconta cosa significhi per una bambina avvicinarsi al suo sport. La ginnastica è uno sport praticato soprattutto da giovani ragazze che iniziano da bambine all'età di 6-7 anni, sempre grandi. E vabbè, ovviamente è uno sport molto bello che può affascinare al di fuori, però le persone che magari lo vedono e non sanno tutti i sacrifici che stanno dietro a questo sport, e quelli che fanno le ginnaste fin da piccole fino a quando crescono e come la vedono da più punti di vista nel crescere. Vanessa è figlia di Giovanni e di Galia, bulgara di Pleven. La Bulgaria è terra di ginnaste, ma non è la madre a spingere la figlia verso il suo destino. Gli inizi di Vanessa bambina sono nella danza classica, anche se per il suo carattere esplosivo i passi sulle punte sono esercizio di noia mortale. È in un pomeriggio come tanti di fronte alla televisione che Vani ha una vera e propria folgorazione. Si è imbattuta nella ripresa di un meeting di ginnastica e sta osservando incantata le evoluzioni di una ginnastica alla trave, uno degli attrezzi più spettacolari e tecnicamente complessi della ginnastica artistica femminile. L'esercizio non è ancora concluso quando la piccola Vanessa prende la sua decisione. È ciò che vuole fare, non sa ancora se nella vita, ma certamente al posto della danza e soprattutto al più presto. Purtroppo, a Genivolta, nella provincia di Cremona, dove la famiglia Ferrari si è stabilita da qualche anno, le strutture non sono adeguate alle sue aspirazioni. Nonostante i 40 km di distanza quotidiani, mamma Galia si trasforma in autista e si mette al servizio della determinazione di ferro della figlia. La destinazione è Brescia, anzi, Brixia. Quando dalla vecchia palestra in cui mi allenavo da piccola sono passata in Brixia, nel 98 ho iniziato il primo allenamento subito con Enrico, che mi ha ho guardato un po' a che punto ero, cosa sapevo fare. Dopo poco tempo mi sono trasferita ad allenarmi in Brixia e io abitavo in provincia di Cremona, quindi tutti i giorni mia mamma mi accompagnava in palestra a Brescia, di cui 45-50 km di strada, poi ritornava a casa e mi riveniva a prendere a fine allenamento. Il primo anno è stato più o meno così, e mi allenavo al pomeriggio. Dal secondo anno ho iniziato a fare doppio allenamento e quindi mi allenavo a 9 anni, quindi ero piccola, alla mattina dalle 9 all'1 e dalle 2 alle 4:30, e poi andavamo tutte insieme a scuola, in una scuola privata, alla sera, e per bambine piccole così non è proprio facile. Nobody seems to know. Sessanta settecentocinquanta per la Bigger. Adesso il compito è più arduo però per Vanessa, eh? Devi fare più di 15.225. Silenzio, su, nessun dorme. Sul finire degli anni 90, Vanessa, detta Vani, inizia il duro apprendistato di ginnasta. È dotata e forte, ma allo stesso tempo fragile. Uno scricciolo minuscolo eppure esplosivo e dal carattere di ferro, come il cognome che porta. E di cui presto si accorge Enrico Casella, l'ingegnere ex rugbista, che intuisce di avere incontrato un atleta speciale. La vita di Enrico è già da qualche anno votata alla ginnastica, di cui è diventato uno dei tecnici di maggior valore, capace di portare la società da lui fondata a 11 scudetti tricolori in 13 anni, e prima in Europa nel 2003. Da Monica Bergamelli a Francesca Morotti, Irene Castelli e Giorgia Denti, Ilaria Cortinovis, Roberta Galante ed Erika Fasana sono solo alcune tra le ginnaste portate da Casella e il suo team agli onori della cronaca e in ogni angolo del mondo, passando per 4 Olimpiadi, decine tra mondiali, europei e meeting internazionali. Ma è l'incontro con Vanessa a cambiare il suo destino e quello della società da lui creata. Prima di capire se poi Vanessa sarebbe potuta diventare un'atleta di punta, ovviamente bisogna vedere se sono altre caratteristiche. Una è l'allenabilità, cioè la capacità dell'atleta di farsi allenare, l'entusiasmo al lavoro, e su questo Vanessa è stata subito, da subito abbiamo visto che era incredibile, perché continuava a lavorare, se gli proponevi qualcosa lei continuava a ripeterlo, cioè proprio desiderosa di far fare al proprio corpo le cose che noi proponevamo, quindi una grandissima allenabilità, e quindi allora grandi potenzialità fisiche, grande allenabilità, e poi mancava l'altro tassello, quello di vedere poi se in una competizione avrebbe poi potuto reggere una serie di altri fattori che nella ginnastica sono molto molto importanti. I risultati per Vanessa non tardano ad arrivare, grazie a un argento e un bronzo ai campionati europei junior di Amsterdam 2005, e culminano nel corso dello stesso anno, nella vittoria ai Giochi del Mediterraneo di Almeria, dove vince 5 medaglie d'oro e una d'argento. L'istinto di un cannibale, avrà modo di dire Casella in quell'occasione, intuendo nell'allieva le potenzialità per mirare ancora più in alto, ai massimi livelli. Sul calendario delle gare, i campionati mondiali di Aarhus sono previsti solo pochi mesi dopo, per l'autunno del 2006. Non c'è tempo da perdere. Dentro di lui sente che la possibilità di portare un'atleta italiana a vincere per la prima volta la medaglia d'oro a un mondiale di ginnastica è concreta. C'è solo una cosa da fare: lavorare duro, come sempre. Nel 2005 ci sono stati i giochi del Mediterraneo ad Almeria in Spagna, e lì iniziavo a pensare di essere tra le ragazze più forti che stavano entrando nell'ultimo periodo. Infatti, ai giochi del Mediterraneo, appunto, sono riuscita a fare il miglior risultato di un'italiana che avessero mai fatto prima. Continuando ad allenarmi dopo questi bellissimi risultati, sono arrivata nel 2006 un po' a all'inizio del 2006 più fuori forma perché mi ero appena rotta la mano a dicembre del 2005, però ricominciando vedevo che comunque la voglia di fare era sempre quella del 2005 e pian piano sono riuscita a crescere sempre più in fretta e con la determinazione giusta per rendermi conto di poter fare un buon mondiale. Ovviamente sapevo delle mie possibilità, ma prima di fare la gara sono sempre stata abituata a dire di voler fare bene e che non mi interessava il risultato, ma alla medaglia non è che proprio ci pensavo, ma sapevo che sarebbe potuta arrivare. Vanessa, in accordo con un carattere più riservato, non si sbilancia. C'è qualcuno che invece crede fermamente nelle possibilità della sua atleta. Enrico Casella ricorda con queste parole quei giorni decisivi. Pochi giorni prima della partenza eravamo in ritiro collegiale a Milano e io fui intervistato dalla RAI, proprio dalla televisione, e mi sbilanciai in un pronostico e io dissi: noi andiamo a questi mondiali per cercare di portare a casa una medaglia nel concorso generale. Molti, diciamo, sorrisero perché Vanessa non era molto conosciuta, anche la ginnastica era uno sport un po' di nicchia, quindi si faceva un po' fatica a credere che, poiché nessuno mai dell'Ovest aveva vinto un titolo mondiale, potesse essere di una bambinetta di 16 anni che si allenava in una palestra senza neanche tutte le strutture, con un allenatore che veniva da un ambito diverso della ginnastica, questo è il solito megalomane. E invece non era vero, invece noi avevamo dei dati che ci dicevano che era possibile farlo, poi se una cosa è possibile farla bisogna crederci fino in fondo e veramente crederci. E noi siamo andati a questi mondiali convinti che lei potesse farcela. Il 16 ottobre 2006, nelle qualificazioni del campionato del mondo di Aarhus, Vanessa, per la prima volta nella storia della ginnastica italiana, si qualifica per 4 finali: concorso generale, parallele asimmetriche, trave e corpo libero. La squadra azzurra, che comprende anche Monica Bergamelli, sua capitana alla Brixia, non riesce a superare la nona posizione. Risultato che impedisce alle azzurre di partecipare alla finale a squadre riservata alle migliori 8 nazionali. Gli occhi di un intero movimento, dell'Italia sportiva e quelli azzurri e febbrili di Enrico Casella, si spostano tutti sulla piccola grande speranza sedicenne. Il 19 ottobre, nella gara del concorso generale, Vanessa Ferrari è saldamente in testa dopo la seconda rotazione con un punteggio di 30.625, merito di un buon volteggio e di un'eccellente prova alle parallele asimmetriche. Durante la terza rotazione alla trave, Vanessa cade, eseguendo un salto raccolto con avvitamento, ottenendo un punteggio di 14.900, che sembra compromettere la gara. Ora si trova al secondo posto in classifica generale. È il momento dell'ultima prova, il corpo libero, quella decisiva. Vanessa esegue un esercizio pressoché perfetto sulle note della Turandot. Ma sugli spalti, di fronte a un pubblico deliziato che comprende mamma Galia, papà Giovanni e l'incontenibile entusiasmo del presidente della Brixia, Folco Donati, pare proprio che nessun dorma. Vani, hai vinto, urlano dagli spalti. E medaglia d'oro per la prima volta nella storia della ginnastica italiana, come ricorda in modo più pacato il telecronista Rai Andrea Fusco ai telespettatori e a un emozionato Yuri Chechi. Vedete quanto manca, 15.225, per ottenere il primo posto. Anche Enrico Casella, il suo tecnico della Brixia Brescia, mentre grande delusione per la Isbasa, rumene che davvero non ne vogliono sapere di salire sul podio, ma qui adesso l'attesa è tutta per questa ragazza che deve ancora compiere 16 anni, di Orzinuovi in provincia di Brescia, che gareggia con 4 viti, è campionessa del mondo, è storico Yuri, 15.500, storico risultato, per la prima volta un'italiana è campionessa del mondo, non era mai accaduto nella storia. Dopo 50 anni, dopo 56 anni, si torna sul podio. In quei fatidici giorni, Vani torna sul podio altre 2 volte, grazie alla conquista di 2 medaglie di bronzo, alle parallele asimmetriche e al corpo libero. Un trionfo personale di assoluto prestigio. Ancora oggi, a 6 anni di distanza, Vanessa ricorda quei momenti con emozione, ma con la stessa intatta modestia che la contraddistingue e che ne fa una campionessa anche nella vita. Ma ma all'inizio, cioè sì, ci credi, però ero così, non ero forse consapevole di quello che avevo fatto e quindi non ero felice quanto magari ripensandoci sono felice ora e mi vengono i brividi. Una volta no, perché sapevo che poi mi venivano le cose più facili. Destini incrociati. A Destini incrociati, Vanessa Ferrari è campionessa del mondo 2006 di ginnastica artistica. La prima di sempre. Il suo trionfo è frutto di talento infinito, ma anche di duro lavoro e tenacia, di incontri fortunati e decisivi come quello con la ginnastica Brixia, i suoi dirigenti e i suoi tecnici, primo fra tutti Enrico Casella, che ne è stato il fondatore e che per primo ha creduto in lei. L'allenatore campione del mondo racconta con queste parole i momenti successivi a quel momento così intenso della sua vita, non solo sportiva. L'emozione è stata incredibile, pur essendo temprato da tante da gare, situazioni, gareggiare per vincere un campionato del mondo è una cosa diversa, è una cosa che lascia un po' il segno, cioè uno poi fa fatica a fare altre gare perché è difficile ritrovare quella non so, qualcosa dentro, è difficile spiegarlo anche in ambito sportivo, venendo dal rugby. Non lo so, come quando stai per fare una meta lì, non ce la fai, ti lanci, non so come dire, è una cosa strana, però resti un pochettino segnato. E questo mondiale sicuramente ha inciso molto anche sulla mia capacità di affrontare questo tipo di competizioni. Ma la vita continua, si deve andare avanti, soprattutto se si hanno solo 16 anni e si porta al collo la medaglia d'oro di campioni del mondo. Vani ora è famosa ovunque, in Italia si aprono porte prima inaccessibili ed è il momento di riscuotere il credito di tanta fatica. Arrivano sovvenzioni, sponsor, la Brixia può finalmente crescere assieme alla sua atleta di punta e traslocare in un attrezzatissimo prefabbricato di 60 metri per 15, il Pala Algeco, una sorta di hangar colmo fino all'ultimo centimetro quadrato di attrezzi e materassi, ma anche di telecamere, sistemi avanzati per filmare gli allenamenti e rivederli alla ricerca del minimo errore. Ma anche un luogo dove vivere e riposare assieme alle compagne di fatica, alcune provenienti da ogni angolo del mondo, grazie alla cucina e alla foresteria che sembrano quelle di un albergo a molte stelle e dove smaltire le frequenti sveglie all'alba seguite da doppie sedute di allenamento. Tuttavia, non sempre le cose vanno per il verso giusto. Vanessa scopre di soffrire di tendinopatia e in particolare di una degenerazione del tessuto del tendine di Achille al piede destro. A complicare il tutto, dopo il mondiale di Stoccarda del 2007, anche una microfrattura all'osso scafoide del piede sinistro. Quando sono tornata dal mondiale ero ovviamente felice e così ho continuato ad allenarmi normalmente senza limitare gli allenamenti, però c'è stato un po' un errore da parte magari sia mia che del mio allenatore a continuare a spingermi fino a quando ho iniziato ad avere i problemi fisici. Infatti nel 2007 ho avuto nel mondiale successivo una microfrattura al piede sinistro e già sentivo male al tendine destro, guarita la microfrattura il tendine non passava e me lo sono portato avanti fino all'Olimpiade di Pechino senza mai più riuscire ad entrare in forma. Gli Gli infortuni non impediscono a Vanessa di vincere un bronzo a Stoccarda nel 2007 e l'oro nel concorso generale agli europei di Amsterdam. Ma l'usura fisica, che pare impossibile in una ragazza di 17 anni, ma che nella ginnastica è invece un fenomeno frequente e precoce, unito a qualche errore di programmazione, portano a un'Olimpiade fallimentare. A Pechino, Vanessa, tormentata dalla tendinite e poco allenata, finisce undicesima in classifica generale e non riesce a conquistare medaglie in nessuna specialità. Il 2008 è archiviato come il peggiore della sua carriera per risultati e infortuni. Ma Vanessa, la Brixia e tutto lo staff sanno che niente è perduto, che volontà e sacrificio ancora una volta ripagheranno gli sforzi di tutti. Il periodo di riabilitazione è lungo e difficile, ma nel 2009 Vani è argento agli europei di Milano e nel 2011 conquista il suo quinto titolo ai campionati assoluti italiani. Il 2012 è nuovamente anno olimpico. Vanessa e ancora di più Enrico Casella sono convinti di potersela giocare fino in fondo. Adesso ci stiamo preparando per i giochi olimpici di Londra con Vanessa e con Erika, che sono due punti fondamentali della squadra azzurra. Un'altra esperienza importante per Vanessa è la seconda Olimpiade, quella di Pechino non è andata tanto bene, nel senso che purtroppo lei ci è arrivata in una condizione fisica precaria, dove ha avuto uno stop di oltre un mese, a un mese dalle Olimpiadi, quindi però non si poteva dire che non era in forma, perché ovviamente non si poteva dare un vantaggio agli avversari, in più le solite storie, il CONI, le medaglie eccetera eccetera, quindi è stata una situazione un po' tenuta nascosta, ma noi sapevamo che lei non aveva tante possibilità a quel punto. Lei ha sofferto questa situazione perché lei ama essere una vincente e purtroppo le condizioni erano tali per cui non avrebbe potuto esserlo, quindi sono stati dei giochi olimpici, quelli di Pechino, per lei abbastanza sofferti. Io spero per lei proprio che invece questa volta lei possa arrivare, anche se ormai più grande, atleta più matura, a 21 anni non più, quindi una giovane scalpitante di tante, possa arrivarci matura ma sana, in buone condizioni fisiche, perché io sono convinto che lei è ancora in grado di tirare fuori qualcosa di importante per se stessa e per l'Italia. E l'unico vero sogno per me è quello che lei stia bene. Se sta bene, sono contento che ci farà ancora contenti e felici tutti quanti. Mancano pochi mesi ai giorni della 30ª Olimpiade. Vanessa ed Enrico ci andranno ancora assieme per provare a regalarsi un sogno, che è anche quello di tutti. Un'altra medaglia d'oro, forse più di una. E sulla scia dei successi di Vanessa, la speranza che in quei giorni possa nascere la sua erede. Vani, pur motivata al 100%, si dice stanca e in qualche modo intuisce di voler provare a vivere anche un'altra vita fuori dalla ginnastica. Quella che sarà la sua scelta dopo Londra non è dato sapere. Ciò che andrà a fare insieme all'amico allenatore e mentore Enrico Casella sarà fantastico poterlo vedere vestiti d'azzurro, sperando in un nuovo urlo di gioia. Ho preso la chitarra senza saper suonare.